esempio, vabbè, vabbè, le sei non conosci uno, andiamo a vedere, poi vendiamo tutti i nomi, quando quando c'è avanti, sto vendendo tutto, avevo quel prisciuno, le sei, casa ancora conosci uno, buonanotte, vabbè, c'è avanti, vendo, vendo, buonasera, tu che baracchino si trattende già, perché? Cazzo, non riconosci la modulazione ancora, buh. Sì, io già lo riconosco, non riconosco, sei Luca Flipper. E chi è? Chi è? KK, io vendo tutto intanto, la cosa che più giù vende, tutta la rimanda non entra nessuno, la risera non entra nessuno, buh. Ah, oh, che ci stanno entrando, anche ieri sera c'era gente, boh, non si risente. Stanno entrando, lui. KK, mi posso un piccolo annuncio stasera a me su Facebook e su eBay dove posso vedere e ti prendi tutto qua e sarebbe bongo e se ti conviene così fallo e non vengo a aprire più però già ma se non aprire più non avevo più nessuno non avevo entrato nessuno non avevo compreso che Raus già entra la gente già entra. Magari avevamo da fare, ieri poi c'era la partita e molta gente è stata a guardarsi la partita. Oh, Lu. Che ha trovato un figo da fusare per il microfono, sarà 2 metri lungo. Mi posso girare nel letto e tu. Ah, per il microfono. Sì, ah. Perché non ne trovava 5 punte, hai capito? Però ho cambiato questo di della Stati. Che era 7, giusto? Ma poi sono con 4 fili già. Tutti dormiti, tutti dormiti. Ehi, fra, tutti dormiti, davvero me. Ciao Marco, a Marco che si è svegliato. No, Sorventi sta facendo delle prove, Claudio, ho sentito, c'è Gianfranco, stavo carellando. Caspita, questo Smitter arriva in 9 più 40, lo sai. CRT 7009, baracchino sempre. 7009 non è come il 5005, o no? No, sembra più un B-banda. VHF B-banda, mi guardalo su internet, 7009 CRT. Modulazione vedo che a posto, c'ha dei picchi notevoli, vabbè, sullo Smitter poi. E bisogna farle lavorare queste radio, sennò si inchiodano. Bene, va giù un freddo che non hai idea. Infatti adesso mi piglio la stufa, tanto adesso mangiamo. Se c'è qualcuno ad ascoltare, ascolta, sennò pazienza. Ah sì, l'ho visto. Sì, sì, che c'è Tassini sotto e gli altri due a sinistra. Ho visto. Ehi, quello che non ho capito è se questo Smith riesce ad andare più di 9,40, perché fondo scala 9,60, però tutti i 9,40, nessuno l'ho visto mai oltre, può darsi pure che sia limitato, cioè c'è il fondo scala 9,60 ma non ci arriva, dovrebbe venire uno sotto casa per fare la prova. Vabbè Lu, a dopo, nel caso, e se no, sentiamo quando capita. Stavo scambiato per Franco California, come hai detto, tutti i drumiti. Ah, ok Marco, vai, fai con comodo, e mi adesso aspetto 3 secondi, e vabbè, sono tutto. Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao. Oh, va, attento alle 10? Attento 10? Tutto chioddo. Chi sei, Marco? Non c'è nessuno? No, c'è la Luca poc'anzi. Io poi stavo facendo prove sul 40 e so per mangiare. C'era anche qualcuno sul 20, perché ho sentito degli slatter, sul 10 sentivo degli slatter, c'è qualcuno sta provando. Ho girato, ho capito, pochi secondi fa, sul 20, poi ho attaccato il microfono, ho chiamato sul 10. Sì, sì, c'era Claudio che stava provando il DAC e sembrava che uscisse bene anche col mic normale, cioè io lo sentivo bene. No, il DAC se gli abbini un bel microfono da tavolo, la volte sua è con lo Shure, anche col Tamer va benissimo, una bella radio, c'è una modulazione spaventosa perché è un valvolare, sulla voce non c'è né transistor che tenga. Eia. Sì, quello mi pare sia, sembra transistorizzato e poi c'ha la valvola per, come finale praticamente, così mi pare di averlo visto dentro, in foto. Mamma mia che freddo, ho le mani gelate. Qua urge la stufa, urge, ne ho bisogno. Vado a montare la bombola nella stufa, poi mangio, vabbè. Se entra qualcuno ascolto. E tutto lì, dai, la radio è buona, sì. Che radio è per te? Che radio stai utilizzando? Oh, vabbè. No, ti ho detto, che radio stai utilizzando? Hai cambiato radio per te? No, scusa, siccome c'era lo scanner inserito sulle memorie dell'apparecchio, come ho mollato mi sono trovato sul 20, ho sentito Claudio. Sì, questo è un CRT 7009, quello che sembra un bibanda. Ogni tanto bisogna fare girare i giocattoli qua, perché sono giocattoli poi. Però discreto, modulazione dovrebbe essere discreta. Rispetto al 3009 come la senti? I toni più bassi? Guarda, rispetto al 3009 era già bella, questa è ancora più bella. Una modulazione molto corposa, bella, piena, ti dà più naturale, dai, più neutra. Anche il 3009 la tua è una delle migliori, ho detto sempre. Questa però mi piace un po' di più, un po' più di bassi, di tonalità basse, però è bella, mi piace tantissimo. Sì, è a condensatore questo mic, mentre nel 3009 ha una capsula classica 500 ohm dynamic. E io cerco di parlare, guarda, così sono frontale, però gli sputazzi probabilmente li senti di più. Se parlo di lato è già meglio. Va bene, Robè, io al limite faccio ascolto un po' qua, un po' sul 20, dove sento gente ascolto, ok? Adesso monto la bombola nella stufa e mangiamo qualcosa qua, eccetera, e fatta la serata. Ok, Robè, dai, ci sentiamo. E ciao, buon proseguo, dai, prova a vedere se c'è sul 20 qualcuno, se no, se coincide ci sentiamo un altro momento. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Attento 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. E i tre bolle, sei due. Mia Natale, Pasqua e Capodanno, e beh Natale. Ciao Robè. E cosa stai combinando? E mi fra un po' mi faccio l'insulina e mangio. Non sto facendo nulla, sono seduto. Ma non stai uscendo Natale? No, adesso mi hanno messo in lista d'attesa perché ho parlato col chirurgo per farmi quell'altra operazione e così abbiamo finito. E cosa sto uscendo? Oh, yeah. Cura a me. Vabbè dai, piano piano già si risolverà, dai. Speriamo di sì. E certo che sì. Che radio è questa Natale? Come? Che radio stai utilizzando? E55. E microfono? Turner più 3. Ah, l'hai trovato poi? Me l'hanno regalato un amico, quello grigio non è quello nero. Ma è sempre amplificato quindi? No, già sta andando bene, già c'è forte. Ce l'ho basso anche, mi guarda, adesso lo metto quasi a metà. Come va adesso? Quando sollevi un pochettino si sente la ventola, se no va benissimo anche nell'altro modo. Lo tengo basso, da, così va bene, da. Ok, qua. Va benissimo Natali, ti ascolto perfetto. Segnale è quasi 9 più 20. Tu rapporto a me me lo puoi dare, ce l'ha quel baracchino, lo Twitter. Ma è digitale, fondo scala mi sta arrivando. Non sono col coso, col. L'altro è avaro addirittura, come si chiama il superstar? Avero. Mi ha Lucariello. Avero sì. E me Luca Luca. Che pegava? Ogni tanto si sente tac, un colpo di portante. Cacca la giostra, avevo dischi volanti, cos'è lui? Sembra i dischi volanti, il suo rumore. Cos'è Natalia? Non sono io, no, che è Luca. Già lo so che è Luca, già me ne accorgo la segna, Luca già arriva a bomba. Avanti il break. Claudio, sei troppo saturo, ti sento appena appena di voce, il segnale è forte, quasi 9 più 20, però sei troppo saturo. ha migliorato, però sei basso di radio, come mai? Perché non usi il microfono normale? No, già ti ascolto, 9 più 15, ma rispetto a loro sei di radio molto più basso. Avanti Natalino, vediamo che Natalino è quello più, in condizione più critica. Lo senti a chiodo, da Muros? Basso, basso. Lo sento basso, basso, che sono in condizioni critiche io, per lì. E tu Luca, ascoltatelo. Luca, nulla, Luca non ci riprendi, Claudio, a te. Ti ascolta basso, mi ha detto Natalino, anche lui in condizioni un po' disagiate, no, per le radio purtroppo una posizione per l'antenna un po' bassa, se no Natalino già sa farsi ascoltare e sa ascoltare, soprattutto quando era in un'altra posizione, era uno dei più performanti, come si dice. Ok, Claudio, come mai sei uscito a cambiare? Non c'è una radio un po' più forte? E adesso c'è qualcuno sotto, avanti, chi vuole entrare? Chi è avanti? Chi sei? Non lo so, se vuoi entrare entra, avanti il fischio. Vabbè, non ne ha voglia. Claudio, ieri notte vi stavo ascoltando, ero coricato durante la partita alle 10:30. Ti ho sentito a te con la radiolina, tieni presente, una radiolina piccolina piccolina di quelle tascabili, tipo pacchetto di sigarette, ho sentito a tutti. Che era una bomba, esagerato era coso. Ma si chiama Antonio, non avevo mai sentito così forte, a parte Claudio che è qua vicino, ma Antonio arrivava a una radio allucinante, fortissimo di segnale e di radio, anche a te ti tiravo fuori. Poi c'era questo Emiliano, chi è questo Emiliano? No, lui l'avete sentito solo quando l'avete salutato, poi l'ho portato, ripeto, con una radiolina, non so, volevo sentire se c'erano quelli di Coso, che mi hai detto tu, di Ozieri, ieri c'era questo di Ozieri, però io lo sentivo bassissimo, non bassissimo, sentiva era 7, però la radio era, come si chiama, c'era quello di Usilo, come si chiama, Uranio, e mi ha detto che mi tirava fuori, lui però ero un po' disturbato, io avevo il QRM a 7, lo sentivo parlare ma non capivo cosa diceva. Aspetta, c'è qualcuno che sta parlando o c'è qualche slatter? Avanti, chi vuole entrare? Ciao Roberto, buonasera, un controllo Santiago Radio per cortesia. Allora, segnale 9 più 30 radio 5 è forte. Ok, grazie, dai, chi c'è in questo caso? C'è anche Claudio Di Muros e Natalino, facciamo rientrare un attimino Natalino che è in stand by. Avanti Natalino. Break. Registra. Ciao Fra, buonasera. Vabbè dai, riprendi tu, Robè, fa entrare il Black, io rimango in ascolto che sto facendo quella cosa che ti ho detto. Ah, Natalino. Avanti il breaker. Aspettate un attimo, per volta se non capiamo. Avanti Gianni. Ehi dai, buonasera a tutti. Ho detto doppio room. Ciao Franco, ciao Roberto, non so se ci sia anche Luca e tutti gli altri amici che ci sono in rotta, dai, avanti. Allora facciamo entrare di nuovo a Muro, su Claudio, avanti a te, per i saluti a Franco, Gianni, Natalino che deve fare roba, adesso è entrato anche, come si chiama, Marco Condor, avanti Claudio. Io già ti ascolto, più da Ruggito. Buonasera anche a te, ben sentito, anche se la radio è bassissima, devi dare una regolata perché la radio è molto molto bassa. Chiaia Franco? Dimmi. Ma dove sei tu? Sono nel monte adesso. Io ho piazzato l'antenna, Roberto. Ma dove sei? A Monte Rosero Alto. Ah, dove stavi prima più o meno, eh? Scappa, ho piazzato l'antenna, comunque già va bene, va. Sì, è già l'ugrido, super i 9.30 tu. Va bene, bene va qui, ok dai. È un'antenna così, ma già va bene. E io come ti arrivo? Prova, sai. Ora 1, 2, 3, prova a canale 10. 9.30, 9.35, sì. Sì, diciamo simili come segnale. Ok, vediamo un po' Gianni Doppio Rumato il mic e poi farà girare per Marco Condor. Il più piccolo sono io, là. Cosa ti arrivo io, Robè? Tu sei quasi 9 più 30, 9.25 tendente con i picchi a 9.30. Vabbè. Adesso sono con i vatti dell'apparato solo. A Puglia. Vediamo se Marco c'è ancora. Cambiata la bombola. Sì, a bombola arriva Coso qua. Franco arriva a bombola adesso. Allora, questo Smitter è 9 più 40. Al 3009 mi pare sia 9 più 20-25, ma è molto secco quello Smitter. E ha poi sentito Capri, ma non Capri, Chiodo, che era Radio 1, adesso ha detto che cambia radio, vediamo cosa ne esce. nostri, prendi California. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Ecco, poi si conferma, dai. Già va bene così. Rapporto per te, te lo contraccambio, 59 più 30, Marco, qua la mia stazione. Io rilancio la microfonia a Gianni e farà girare per cosa, per Roberto, dove va? Ma lontano un secondo, Rob, che ci facciamo la questione. E ieri a fra. KK, dai. Andare. Avanti Roberto, riprendete l'altro, dai. Questo apparecchio qua è quello nuovo, non so come, siccome mi senti anche di radio, dai. Ho trovato, Marco, il cavo per quel microfono, però è lungo, roba di 2 metri. La statica? Eia. Ma spiralato o lungo o dritto, cioè? No, spiralato, solo che piccolo non ne avevano a 5 cavi. Ero dovuto comprare un bel lungo. Solo mi posso girare nel letto, come fu? Quello già è comodo già. Hai avuto problemi con quel connettorino interno? Che c'ha tutti quei piedini che ci inseriscono? No, ho saldato sui piedini direttamente, l'ho tolto lo spinotto e ho saldato sui piedini, dai. Vediamo se è rientrato chiodo con l'altro apparato. Se no riprende Roberto. Eia, sta dicendo Franco, con che radio sta uscendo? Si è otta. Adesso c'ha l'eco. L'eco. C'ha un eco solo. Adesso c'è molto più forte di radio, il doppio di prima. Sì, ti sento bene, ti rilancio a Gianni che farà girare per Marco. K, andare. Dai chiodo, adesso ti ascoltiamo molto meglio, dai. Non so come ti ascolti a me, lì a Muros, sto usando il Cobra là in questo momento. Non so come mi si ascoltava, sia di segnale che di radio. K, avanti a chi tocca. Marco, è Franco, ti arriva più forte di me dalle tue parti. Fuggi di tutti. Marco, mi senti Marco? Ogni tanto scappa. Franco, vai tu. Vai tu Claudio, e salvi. No, ce n'è 9 più 20, radio 5, bella chiara e forte. Ma io sono sempre uguale, non tocco mai niente, sempre quella, la radio è sempre quella, a me posso cambiare ogni tanto il microfono, ma la radio è sempre quella, il segnale è sempre quello lì. Ok, vediamo se Marco è rientrato, se no riprendi tu Gianni. Cos'è? Gianni? Ogni tanto cadono le linee. Un attimo il telefono, scusatemi. Certe volte davvero non si riesce a stare in pianta stabile a modulare, o mi chiama mamma, o devo andare in bagno, o pigliare l'acqua, o in cucina, eccetera. Vediamo se rientrano. Claudio, allora, Santiago 9 qua, adesso la radio è più che ottima, prima era radio 1, Santiago 9, K, adesso vediamo se rientra Gianni, se rientra California. Sì, io ogni tanto faccio girare radio come questa oggi, tutta roba moderna, però nonostante sia roba nuova e moderna, tu basta che rilasci qualche mese fermo, qualche piccola magagna, un po' la trovi. Poi magari come si caricano bene i condensatori si ripristina il tutto, però anche qua piccole cose ambigue. Poche parole, radio, vecchie o nuove vanno fatte girare, se no... Non, certo erano ferme, pensa che ce ne avevo una radio che era ferma da quando è iniziato il Covid, figurati. Per fortuna tutto a posto. Sono rientrato io. Eia Robè, vediamo se Gianni e California hanno ripreso. Gianni? Ah, io sono sempre qua, mi sono spostato. Sono sempre qua a ruota. E adesso fra poco vado a portare il cane perché sta mugugnando e sicuramente vuole scendere giù. Adesso vado, lo porto giù e così almeno è fatto il gioco. Allora, vi saluto tutti, vi prendo magari più tardi. E io già, vediamo se è rientrato a California, ha detto che stavo facendo una cosa, nulla. E io, va bene, riprendi, vabbè, io... vado a lavarmi le mani, quindi se non rispondo non fa niente, riprendete voi, dai. Quando posso rientro. E qua è sempre io proprio non riesco a stare tassellato qui al baracchino, adesso sempre andando avanti e indietro, e quindi in ruota è come che non ci sia, vabbè, vai. E allora poco fa ti ho chiamato, infatti non ha risolto, ma ho detto se California ti arriva più forte di me, per fare un confronto di posizione. Allora questo Smitter no, dovrei provare col 3009 e attenuare il segnale. Aspetta, qua siete tutti 940, questo è LED, però non ho capito se vada anche oltre. Dovrei fare le prove, aspetta che ti attenuo con questo per curiosità e vediamo se poi rientra Franco, vediamo il segnale. Un attimino, dammi tempo. No, questa domanda te la sto facendo, lo so per quale motivo, non mi ha fottuto se lui arriva più forte o più basso di me, non cambia niente. Per capire come radiano le antenne, perché il tuo segnale è più forte di quello di Coso, perché è logico, perché sei più vicino. Però per vedere se lui è a mezza strada o più lontano rispetto a me, più vicino, tu arrivi 9.40, quasi 9.40, così come stai uscendo, e lui mi arriva 9.30, cioè 10 punti, quasi 10 punti in più di lui. Però volevo capire se lui, considerando le distanze, se lui è più lontano o più vicino, a vedere come radiano le antenne. Allora, tu qua sei 6, 6 e mezzo, questi LED non sono perfetti, cioè il LED prima del 7 è tra il 6 e il 6 e mezzo praticamente. Io c'ho, allora dovrebbero essere 12, però c'ho il filtro che mi ruba una percentuale. Guarda, puliti dovrebbero essere 10 watt puliti. Vediamo se è rientrato Franco per una prova comparativa, così tanto per saperlo. Nulla. Va bene, dai, vediamo appena rientra, se rientra. Claudio, riprendi. Datemi tempo che alzo le fighe. Ehi, a dove sei andato a prendere la strada? Ci sono passato domenica, vabbè, c'era un po' di freddo, ho detto no, neanche me ne scendo, sono andato, ho detto io ci volevo fare il giro da Frulina, zero con mia figlia, e poi ho detto no, andiamo verso Saccaggia, ma proprio un giretto abbiamo fatto, ce ne siamo tornati e c'era troppo freddo. In che zona sei andato a prendere gli asparagi tu? No, vabbè, dove stai dicendo tu? Non ci sono andato, non ci ho pensato, passando la San Martino, sta dicendo tu, andando verso la cosa dove c'è lo stabilimento, lì. Ehi, allora ci passo, avanti il break. Ciao Claudio, ciao Roberto. Mi interessava soltanto un controllo di radio che ho messo in posizione il microfono un po' distante al baracchino perché innescava. Come sta uscendo? Allora, segnale 9+10, radio 5, leggero effetto camera, però è comprensibilissima. Gamma, se messo così invece 1, 2, 3. Ti sento lontano, sei molto lontano, tu stai amplificando un me, prova a passare un po' l'amplificazione. Allora, è così? Va a parlare. 1, 2, 3, prova di azione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, davanti. No, la radio, ti ripeto, Tony, è chiara. Sembra che sei però molto lontano dal microfono, come quando sei col telefonino che parli col viva voce. Non è presente la radio. È così? 1, 2, 3, prova di modulazione. Non ho notato differenza. Riprova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, è innesca, se non posso vicino. Ma tu stai alzando il mic again? No. Prova avvicinati al microfono tu, ma se ti avvicini fischi al microfono. No, così no, ecco. Adesso avvicino al microfono. Ma scusa un attimo, ma tu a che distanza stai parlando al microfono? 30 centimetri. Perché sembra che sei in una stanza vuota e parlando col viva voce, fa un effetto così. Comunque, ti ripeto, la radio è chiara, non posso dire niente, è comprensibilissima. C'è un po' di questo effetto camera. Metallica. Beh, a me mi va bene così perché mi sento in cuffie. Claudio, come ti arriva a te? Va bene, ma un po' metallica l'accento, un po' ribombante, qualcosa del genere, non lo so. Ecco, l'importante è che non mi innesca, bombante. Se la metto sotto il mobiletto, mi va meglio. Non lo so, questo lo devi vedere tu, è un po' troppo rimbombante. Va bene, vabbè, io sto usando il microfono normale, sempre col DAC. Dai, ti ho mandato il video, mi ha confermato, quindi domani faccio quell'imballo che hai detto tu. È la cosa più comoda e più robusta, dai. C'è anche Claudio Lamuro, davanti Claudio Lamuro, per dare un controllo a Tonino, che è più lontano rispetto a me. Che lo ricinto, sì. Devo dire che c'ho la batteria un po' scarica, sto usando quel microfono, però la batteria scarica, tutto qua. E devo cambiare il coso porta batteria, perché ce n'è uno che sta andando male. Adesso domani vado a usare, lo compro e glielo metto, tutto qua. Ok, vi ringrazio per il controllo, con X da parte mia. Ci sentiamo, ciao, salutami il cuore a Claudio, che ho rigenito. Ciao Claudio, ciao Roberto, abituale a Sottomi. Ciao ciao. Ciao Tony, alla prossima, buon proseguo di serata. Vai Claudio Sparviera. Va bene, dai, io saluto a Tonino, saluto anche a Claudio Di Muros, io rimango in QRX che devo smontare questa radio e preparare il tutto per domani, che questa la faccio partire da sola, Roberto, non mi fido a farla partire sopra il pallet, capito? La faccio partire da sola, dai, non so chi ci sia altro, comunque un saluto circolare a tutti e ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao ciao. E anche a te, ciao Claudio, buon proseguo, dai. Anche io qualche minuto per poi devo uscire. Avanti di Muros, Claudio. Claudio di Muros, ci sei? Aspetta che lo saluto, Roberto. Aspetta, Roberto, che saluto a Claudio, dai. Ciao Claudio, no, no, rimango in Quirix perché sto smontando, sto usando il DAC, che da tanto non lo usavo col microfono normale. Volevo appunto provare il microfono normale perché domani parte in continente, capito che l'ho venduto. E quindi sono indaffarato, che questo è un pezzo raro, devo imballarlo veramente bene. Dai, ti lascio con Roberto, ti ripasso il cambio, saluto a Babbo, poi ci aggiorniamo, ok? E allora già ci provo a passare lì a San Martino, io non ci ho neanche pensato, detto, chi sarà troppo battuto, perché lì passa un po' di gente, tipo la strada Perusini, che è tutto pieno, ma pieno pieno, era tutte le volte che andavo, era tutto lasciato, ne lasciava anche il coso, anche le radici per dire, gli anni passati. Adesso voglio provare di lì, ma ti arrampichi molto, fai molto ferrato tu a piedi? C'è molto ferro, molto pesanti, però già sono utili per le donne quando hanno il ciclo, cose del genere, sono molto utili, persone che hanno problemi di coso, di ferro, assolutamente favorevoli, però qui a tutte le cose bisogna moderarsi senza esagerare. No, prova a passarci, però non ho capito dove questa fonte di acqua che stai dicendo tu. Allora io ci vado abbastanza spesso, c'è lo stabilimento di coso, poi c'è l'ex polveriera, diciamo quell'area militare che è tutta in disuso, adesso non è tutta abbandonata. Gladio. Sì. Ora. No, ma fallo il passaggio. La portante c'è. Mi pare di capo viene la portante. Mi sentite? Ora. Aspetta un attimino, non parlare, manda solo portante. Voglio capire se ti stanno disturbando o se è un problema tuo, Cla. Se tu c'hai un ronzio fortissimo, tipo adesso vai bene, Claudio. No, no, già voglio far capire, non ho capito esattamente, quando vieni me lo spiegherai, quando ci troveremo, che dovrei venire per quella roba, mi spieghi esattamente dove è questa fonte, naturalmente se si può bene, non lo so io. No, fallo il passaggio lungo. Registrato. Aspetta, c'è stato un break, io non l'ho sentito perché tu forse eri più forte. Avanti il break. Immaginati. Buonasera a tutti, sono Braccio di Ferro da questa parte. Braccio di Ferro, dalla volte mi sembra un amico carissimo. E beh, tu, Antonio sì. Beh, Ruby One, ma chi c'era anche, chi era l'altro? Avanti, non lo sento l'amico, mi dovete scusare se sono, magari sono andato sopra, ma anzi, secondo me mi ha schiacciato talmente, sto uscendo male. No, io non ti ho sentito, ti ha sentito soltanto l'amico Marco. Comunque, Antonio, mi hai sentito, dopo tanto, ogni tanto ho fatti vedere anche meglio, così ci ricordiamo la tua faccia, visto che siamo da un bel senza vederci. C'è Claudio da Muros, non so se tu lo ascolti. Avanti Claudio, sei copiata da Antonio, l'amico carissimo. L'hai ascoltato Antonio? No, negativo. A parte c'è un dipolo, è per quello che non. Comunque saluto anche, stai parlando di Marco Condor. Marco Condor passa. Oh signore, io però vi devo lasciare adesso. Antonio, fatti vedere, oltre che fatti sentire, che ci facciamo una chiacchierata quando capiti, sai già dove sono tanto. Saluto Claudio da Muros, Marco Condor, l'amico Antonio e tutti gli eventuali ascoltoni. Io purtroppo devo lasciare, devo far cosa. Ciao ciao e buon proseguo a tutti. Ciao Robby, ben sentito, alle prossime. Marco, ma sei tu? Marco. Avete parlato in due. Ciao Robby, buona serata, buon proseguimento, buon tutto. Ciao Antonio, mi copi? Ti copio, ma sai come avevano detto cose brutte di te, vero? Davvero preoccupato. Il 27 è così, se non si fanno a pezzi l'uno con l'altro non sono contenti. No, ma non a pezzi, anzi, erano preoccupati anche lì. Dice che te l'avevo avuto questo cagotto che non riuscivi ad alzarti dal gabinetto. Altro il cagotto, altro il cagotto, via. Cose che capitano, va bene. Tanto di qualcosa bisogna morire in tua. Eia. Allora, vediamo che c'è rimasto qua. Il doppio room, ci sei ancora? No, è andato a portare il cane. C'era California, non ha più ripreso. Franco, ci sei? Claudio Sparviero, ci sei? Claudio è andato a pisciare il cane. Ehi, credo sia rimasto solo Claudio di Muros. Io lo rilancio, aspetta, lo senti? Qua arriva no? No, 8:30 arriva, 8:30. Vai Claudio. Ti volevo chiedere, non so se stavate parlando della fonte di Florinas, però l'altra volta stavi parlando di una fonte in zona Florinas. Io ci andavo con nonno, ma 40 anni fa, 30 anni fa, e non mi ricordo esattamente che strada statale è quella. per arrivare alla fonte. Poi ti dirò, me ne ricordo anche un'altra in un luogo completamente diverso, è una specie di fonte dove c'è un vascone e in più c'è un abbeveratoio, ma mi interessava più che altro quella dove si riempiono i bidoni d'acqua, dai, la prima che ti ho detto. È probabile, probabile, purtroppo nonno adesso è da parecchio che se n'è andato e non glielo posso più chiedere. Poi io ben poco le conosco le strade, non le faccio quasi mai, al limite andavo in paese lì a dare un'occhiata con la roba che ci abbiamo lì e basta. Però mi ricordo che era buona l'acqua, caspita, nonno apposta si pigliava, si portava un bel bidone nel cofano per pigliare l'acqua di fonte. Bevibilissima, poi vabbè, le proprietà, come si chiama, le proprietà dell'acqua, se fosse più o meno come dire calcarea, non lo so, fatto sta che la prendeva sempre, era buona, niente da dire. Vediamo se c'è Antonio ancora all'ascolto, perché purtroppo lui non ti sente al dipolo. Ma è interno sto dipolo, come mai non lo senti addirittura? Forse ha chiuso Antonio. E arriva col tuo stesso segnale, tipo 8 e mezzo da come 9 watt, capito? Con più watt arrivi fino a 9,5. Come l'altro apparato arrivi qua. Bene o male gli smitter sono tutti allineati. Se è 9 da uno e 9 dall'altro. Qualcuno può essere più tirchio di mezzo punto S circa, anche se sono a LED, però bene o male ci siamo. Ok. Vabbè. Qua non c'è più nessuno, mi sa che chiudiamo direttamente, eh? Io vado a farmi il caffè e poi si vedrà. Ciao Claudio, allora le prossime, io poi di notte non entro perché mi accendo la TV, mi seguo qualcosa in TV, dai, quello che c'è. Salutami il gringallone e buona serata e ci sentiamo le prossime, ciao ciao. Qui, buonasera, beh, come va, sto bene, ho appena acceso, mi sto bucando di tutto. Sì, c'erano varie persone prima, non siamo stati molto però, E così, due chiacchiere, Antone, poi adesso sono 8 meno un 4, vabbè, ancora è presto. E poi televisione, stasera c'è un film con Sean Connery, visto, rivisto, lo conosco a memoria però mi piace un bel, e so già che me lo riguarderò. Cavolo, mi sono comunque, l'ho giocato, ho dato un canto, appena arrivato dal lavoro, ho telefonato un die sala, cazzo ottobre rosso. Ehi a Gianni, sì, tu sì che mi capisci. Poi mi piace quello stile sovietico lì che ancora c'era, poi mi pare da lì a 2 anni rispetto alla data del film, no? Mi pare la caduta dell'Unione Sovietica, siamo lì. Ma sai quanto mi piace quel film, porca miseria. Io lo conosco a memoria eppure ogni volta che lo danno me lo guardo, me lo riguardo. Buonasera. Ciao Marco, sì. Si ispira ad una storia, praticamente la storia originale non riguarda sommergibile, ma bensì una corazzata nucleare. Ah. Ma per caso hanno fatto altri film in passato su quel tema? No, te lo chiedo perché c'era anche un film vecchio bianco-nero con Richard Widmark che parlava di una qualcosa a propulsione nucleare e poi c'era stato il botto lì però in quel film. La stavo leggendo praticamente, non mi ricordo, qualche anno fa. Frugando praticamente sono saltato, cioè è saltata fuori questa cosa, praticamente si ispirano, è una storia vera, però l'hanno chiaramente Hollywood l'ha tutta rimaneggiata, ricamuffata, e comunque era vero che l'equipaggio aveva deciso di ammutinarsi, però riguarda praticamente una corazzata a propulsione nucleare, di cui non mi ricordo il nome, cazzo, se riesco a trovare l'articolo te lo linko. Ci sono alcune cose vere e alcune cose sono romanzate, dai. Sì, infatti, lo abbelliscono, mettono cose anche come film storici, mettono un saccaccio di particolari non attinenti alla storia per fare il film più appetibile, magari con attori più giovani, in modo da abbassare il target dell'audience, no? Qui se lo guardano anche i giovani. Per esempio quello di Enrico VIII, Tudor mi pare, no? Mi pare fosse il suo Enrico VIII. Cioè Enrico VIII nei quadri lo sai com'è, no? Un grasso con la barba, insomma. Invece nella serie Tudor hanno messo l'attore belloccio, così capito, sì, l'hanno visto anche i giovani, il target si è abbassato come età. Sì, è una cosa un po' più ruffiana, dai, più cinematografica, più, come si dice, più fruibile da un po' tutti, dai. Cassarola, se si riesca a trovarlo, cazzo, quell'articolo. Un bacio. Era una storia risalente. Credo metà anni 70, fine anni 70 se non sbaglio. Ed era una storia interessante perché poi alla fine dell'articolo, infatti l'autore dell'articolo citava proprio il fatto che da questo episodio era nata una pellicola che chiaramente aveva camuffato e cambiato tutta una serie di cose, però si basava su questa storia qua. Eia, Anto, riprendi pure, dai, un attimino. Stavo guardando i segnali con questa radio, allora Gianni 9.35, Antonio 9.40, però tutti 9.40 stranamente, mi puzza, è come se non segnasse di più, comunque approfondirò, dai, riprendi Antonio che comunque ho trovato il coso, Gianni, proprio cercato vera storia a Cacciatore Rosso, mi dice libro e film si ispirano a un evento accaduto anni prima, l'8 novembre del 75, passato alla storia come l'ammutinamento della Storozevoi, boh, vabbè, quello. Ah, ok, adesso non mi ricordo se fosse una corazzata, un incrociatore, comunque è una roba grossa, dai. Fregata antisommergibile. Ecco, dai, mi ha fregato. Ma poi era andata in porto, cioè si erano ammutinati e sono riusciti a conquistare la libertà, diciamo, no? Vabbè. Non mi ricordo, Marco, è passato un po' di tempo, sì, più o meno per il periodo ci ho azzeccato, era metà anni 70. Speriamo che qua non abbiano alterato la trama, perché su internet, come su Wikipedia, certe volte, siccome è fatta da utenti, Wikipedia, ci sono delle affermazioni o delle cose non vere, è come se adattassero magari storie vecchie, di libri vecchi, no, comunque un po' al proprio uso e consumo personale. Va bene, riprendi a tu. Kappa. Non so manco di cosa si fa vendendo, state parlando di questo film, ma io non lo conosco. Aspetta, con Sean Connery, è molto conosciuta, è dell'88 mi pare, 88. Tutta roba di sommergibili, capito? Guerre tra sommergibili, roba del genere, ammontinamenti, insomma. Un bel film, dai, poi bisogna vedere a chi piace il genere e a chi no. Madonna, scusate un attimo. Vai. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera. Mi dice qualche giorno ci prendiamo un caffè. Molto volentieri. Appena sarà possibile, molto volentieri, Antonio. Ciao, pa. No, almeno ci prendiamo un caffè, dai. Adesso questi periodi sono un po' impegnato, ma... Lo travaglio è chisso. Sì, al limite, guarda, o da Luciano o da qualche altra parte, ma anche al bel bar, me, in Corso Vico, che è salvato da un amico mio. Io vado molto da Coso, da Luciano, in corso Vittorio Emanuele lì. Ah, Luciano c'ha due bar, uno in Corso Vico e l'altro in Porta Sant'Antonio. Ah no, io vado da Coso, vado da... Ma... si chiama? Dove c'entrano tutti gli spazzini? Ah, quello che fa la caffetteria la mattina presto. Ehi! Gappa, ho capito. Ehi, vabbè, uno fa l'altro, non è un problema. Ehi, poi vado anche lì, cioè, ho vado da Giovanni, quello che è lì, perché ci conosciamo tanti anni. Quello che è proprio all'inizio qua, in Corso Vicco, proprio vicino a Fanali. Ehi, ehi, appo compreso. Sì, già ci conosciamo un giorno già, conosco tutti io. Bene mera, bene mera, bene mera. Marco, rientrato sei? Marco, non sbatte il tuo smitter, ho già. No, non sbatte fino in fondo, tu. Appena. No, non ci arrivo al fondo scala. È strano. È ammortizzato. È come tutti i 3009, a meno che non si piazza qualcuno sotto al portone, ma non arriva al fondo scala, dai. Vuol dire che è inchiodato, lo so lì. Già lo sai che qua sono a fondo proprio. Guarda, i miei occhi ancora ci vedono bene e ti sto dicendo che lo smitter a fondo scala, ti ripeto, forse è una caratteristica di questa radio, ma si comporta così, dai, ma anche Marco te lo può confermare. Sì, Anto, di tre apparati praticamente uguali, è duro, no? Non va più di tanto, proprio fisicamente non va oltre, anche se la scala va molto più su, no? Non ci arriva. L'unico smitter buono è quello del K. Scusate che sono in cucina, dai, ho sentito al volo, un attimino, a dopo. K, sono un bucareddo secchio, già lo so già. Guarda, c'è... Lago si ferma su più del 30, in poche parole. Non va oltre. Negativo. Volevo dire che l'hanno fatto così per non spaccare lo smitter, capito? È probabile, ecco perché te lo stavo dicendo. Arriva praticamente ad un certo punto e non va oltre. Ho fatto la prova con il portatile qua dentro casa, vicino, e col portatile qua, arriva a fondo scala, ma sono con gas a... Proprio secco secco, eh. Ehi, è tirchio, questo smitter è fatto così. Avanti, chi è che stava fischiando? C'era qualcuno che stava fischiando, c'era. Ah boh, avanti, chi fischia? E tu intesi un raggi su Bruscio? Sì, l'ho sentito anch'io. Antonio. Ehi, Franco, buonasera. Allora, che si dice? Buonasera, chi con chi sei qua? Con Gianni Rubroffetta. Ciao Gianni, buonasera. Gianni Rubroffetta. Forse, non lo so, forse si è allontanato un attimo. E allora tu, che fai di bello? Cosa combinendi? Io mi agito da Sara che venga ai nonni e da voi magno. Io so già, io sto preparando da mangiare, ragazzi. Stavo facendo il suo, facendo le fennette. Troppo, mangio pure io, capito? Tutto a posto? Tutto a posto. E niente in ordine. Sono un po' girate da ieri, ma comunque, lasciamo stare. Vabbè, io ti ascolto bene, a tu. Stai uscendo bene qua. 9.40, sì, Radio 5, perfetto, va bene, dai. Beh, K, vabbè. Già lo so che andava bene, non è che non lo giocano. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Quindi mi ascolti anche tu, dai. A voglia. Già va bene. Capo, tra me e Gianni Rubroffetta che differenza c'è? Molta o poca? Fa un passaggio già. 1, 2, 3, test radio. 1, 2, 3. Prova tu, Antu. 1, 2, 3, prova. Stesso segnale ci avrete, 9.40 più 9.40. Va bene, dai. Io parlate assieme, Gianni, bombolo io, vedi chi passa. Una cosita. 1, 2, 3, prova. Grebo. Passato bombolo. Aida. Passato bombolo che c'ha più watt oggi, mi. Bombolo è passato. Visto Anto. Io sono 10, sì, dovrebbe essere 10, 11 massimo, ma non ci arrivo a 11. Prova a parlare, anche che prova a parlare io, se ero tu. Allora, qua non passa né uno né l'altro quando parlate assieme. E i watt come sono, grosso modo, fra? Ma siete pari di watt oppure, se no la prova è un po' così, cioè? Allora, io sto uscendo con 10 watt modulati. Antonio? Io uguale. Sì, sì, siete uguali. Se volete vi attenuo il segnale, vi dico attenuato quanto siete rispettivamente, per curiosità. Comunque sembra che vada bene. Poi, oh, fra, tu sei in alto, quella è zona buona. Sei più alto di Luca, anche del monte? O siete pari come altezza di antenna? No, io sono più alto di Luca, tutto lì. Io sono zona Monterosello alto, Luca è zona bassa. Però lui è più avvantaggiato di me, come si dice, ma Franco ha più vantaggi di me rispetto a me. Lui è meglio di me, capito? Vai Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, siete identici, siete assolutamente identici. Modulato 6 e mezzo, modulato 6 e mezzo, attenuato. Gianni un po' di meno, ma Gianni c'ha anche meno watt, eccetera. Grappa, questi 6 watt, altro che c'è tutto usando, io ho 10 watt, sto modulando. Possiamo volare a 68 con l'M300, capito, col preamplificato. Capa, però tu hai più vantaggio di me. Su certe zone vai meglio, e io no. Oh, cosa vuoi ti dica? Tutto lì. Riprendi Marco che vado a controllare la pasta, secondo. Sì, è normale, Anto. Mi ricordo le prove che facevano negli anni 80 i grandi della frequenza di allora, ma a battaglia mia, a colpi di kilowatt, a vedere che arrivava più forte nei paesi più lontani, e lì il vincitore c'era, magari era zone, qualcuno arrivava meglio di qualche altra zona, eccetera. Però all'epoca, vabbè, era pieno di gente. Che te devo dire, Anto, ci trovavano anche più argomenti per passare la serata, capito? Non solo... Vabbè, adesso noi l'abbiamo fatta così per giocare le prove. Sì, per renderci conto un po', ma nero sicuro nero. Però io purtroppo gli ostacoli, cioè io non ho la posizione io. Se avessi avuto la posizione, guai. Cioè, non avrei avuto nessun tipo di problema. Non c'era nessun, però purtroppo io sono penalizzato. Sì, e poi mi pare che da Sassari, quell'amico di Ottieri, da Sassari città 1, forse 2 riescono a raggiungerlo. Poi Chiodo credo che lo raggiunga, mi è sembrato di capire quello, riescono a parlare in banda laterale. Però Sassari, Ottieri, tostami. O era Oristano, no, perdonate, in Oristano era a Fangara. L'unico che ci riesce è Claudio Sassari, noi no, non ci riusciamo assolutamente. Ma infatti è un peccato che lui perda quella postazione lì, quella posizione lì. Quello era il top del top, il top. Capa, ma magari dove va dopo se mette, magari va bene, non lo so. Perché c'è che vede tutto, vede, è in alto lui. Sì, può darsi che sia un po' meno in alto come antenna, no, lì, però c'ha magari l'orizzonte libero tutte le direzioni. Io non so come sia lì da zona, io. Bene. Gianni, riprendi voi, vada bene. Eia, guarda, io c'ho, sto uscendo con 8 watt a strumento modulati, quindi sono 8 tondi tondi, dai. Poi il laghetto si muove appena appena verso il 9, però diciamo che sono 8, dai, quindi va benissimo così. Sì, tu sei più avvantaggiato di me, sei, cioè vai alla più posizione di me. Se non cado non ti sai tu, guai. Sì, dai, è una bella posizione, non c'ho palazzi attorno, attaccati, quindi c'ho il campo libero, dai. Soprattutto verso il mare, un po' verso le altre parti, comunque. Verso la zona del mare sono molto aperto. Aspetta che sta suonando il telefono, sicuramente devo scendere giù. Ehi, a dopo, dai. Ehi, ehi. Comunque già ho visto, grosso modo, insunto, la storia è completamente diversa, c'è un'altra cosa proprio con la vera storia, è un'altra cosa, lì volevano fare un messaggio di propaganda in favore della vecchia guardia dell'Unione Sovietica, capito? Come dire che stavano perdendo i valori del socialismo, comunismo, come vuoi chiamare, sempre quello. Ehi, ehi, sì, ti ripeto, la narrazione è stata tutta stravolta, comunque l'episodio è successo veramente, chiaramente non si parla di sommergibile ma di una fregata. Sì, poi i film americani sono molto fantasiosi, eccetera, vabbè. Poi mi è piaciuto molto Salvata e Solato Ryan, lo sbarco lì, mamma mia, che roba. A sbarcare sotto le MG-42. Io sarei morto di infarto prima ancora di sbarcare. Ma immagina cosa hanno passato quelle persone, mamma mia, mamma di turchi. Per carità. Chissà cosa si mangiavano anche, molti, per sopportare un certo livello di stress, come è successo anche in Vietnam. Bubu. Oi, oi. Già ne fate poco danni con l'imbianchino. Ma carità, dai. Oh, yeah. Lo zio Sam, cazzo. Crocro. Aspetta, c'era un altro film. Adesso mi sfugge il titolo. Quando me lo ricordo te lo dico, Sì, comunque caspita, ce n'è di roba da leggere. È che io la vista mia, tu poco fa hai detto ci vedo bene, io invece la vista piano piano se ne sta andando a ramengo. Più che altro un occhio, l'altro è buono ancora, però devo tenere la roba da leggere a una distanza meno ridotta di prima. Devo allontanare un po' più la roba da leggere, poi se dopo un certo tanto interviene la miopia. E insomma, è brutto picchiare, dai. Vediamo se è entrato Franco. Io a brevissimo stacco, dai. E mi organizzo la serata. Anche io. E magari mi scarico qualche filmetto da guardare, soprattutto questi film riguardanti impianti di chip androidi umani sabotati e roba del genere. Fra un po' sarà realtà, molto bene, tra nanosonde, nanomacchine, microchip, vedrai il cocktail che ci mettono dentro, mamma di turchi, altro che Black Mirror. Un po' mi fa schifo sta cosa, sembra che stiano accelerando esponenzialmente queste tutte seminate, la bionica, anche cose un po' meno etiche. Si chiama transumanesimo. Esatto, non mi veniva il termine tecnico. L'obiettivo è quello, dai, infatti il famoso slogan Internet delle cose riguarda anche l'essere umano, quello è l'obiettivo principale. Quindi la tecnologia sta andando verso quell'obiettivo. Però anziché migliorare la vita dell'uomo la sta incasinando, anzi adesso ancora niente. A proposito, Ex Machina l'hai visto con una C?